E riprendiamo il collegamento con Buenos Aires. Stavamo parlando in particolare della campagna per l'aborto, un aborto che sia libero e gratuito. Come sappiamo, va avanti da molto tempo in Argentina con una diffusione dell'impegno veramente in tutto il paese. E forse al riguardo magari puoi raccontarci anche un pochino delle iniziative che comunque sono state fatte in questi anni in attesa che ci sia una legge che dia diritto alle donne di scegliere e quindi poter decidere sul proprio corpo. Sì, esatto. Diciamo che infatti a sopperire a quelle che sono le mancanze della legge, c'è cioè poi per fortuna tutta una rete di collettivi e di realtà che si muovono per appunto dare alle donne strumenti di conoscenza e di pratiche poi per superare questo tipo di difficoltà. Stavamo dicendo infatti esiste un gruppo di donne femministe lesbiche che hanno dato vita ormai da 3 anni a questa sorta di telefono amico, è un telefono che fornisce informazioni sui vari metodi abortivi che le donne possono adottare senza rivolgersi appunto a delle cliniche private che sono poi il metodo che solamente le persone più, diciamo, più facoltose possono permettersi. Come si fa infatti ad abortire in Argentina se non si hanno i soldi per poter affrontare questo? Ci sono dei metodi artigianali che vanno da quelli più atroci diciamo, di metodi clandestini a un metodo che è molto utilizzato che è il misoprostol. Il misoprostol in realtà è un farmaco che nasce per curare l'ulcera e che però qua è usatissimo appunto per provocare l'aborto, provoca delle contrazioni uterine che sono quelle che poi interrompono la gravidanza. E non è affatto però né indolore né sicuro, quindi molto molto spesso le donne che ricorrono a questo metodo si ritrovano poi a doversi rivolgere ad un ospedale. Sappiamo che in Argentina si producono ogni anno circa 500.000 aborti e di questi 60.000 casi le donne si ritrovano a dover ricorrere a un ricovero ospedaliero proprio perché non c'è niente di sicuro in quello che sono poi costrette a fare per abortire. E c'è poi la tematica molto molto forte del maltrattamento medico e quando una donna si vede costretta proprio perché è in pericolo di vita a rivolgersi a un ospedale pubblico si trova poi a dover affrontare tutta quella classe medica che è portatrice di privilegio e che poi si trova in posizione di giudicarle, di discriminarle. E di operare dei veri e propri abusi. Non sono rare le testimonianze di donne che riportano di aver subito diciamo, il completamento, le operazioni chirurgiche di completamento dell'aborto senza anestesia, mentre i ginecologi che le operavano dicevano ti faccio questo proprio per farti capire, per responsabilizzarti e farti capire che cosa hai fatto. Il giro di affari che appunto riguarda l'aborto clandestino è estremamente elevato, si parla di 4 milioni di pesos al giorno che la legalità dell'aborto si porta via e bisogna sottolineare che poi gli stessi medici che si dichiarano obiettori ufficialmente sono esattamente quelli che sono implicati in questo giro di affari. Gli antiabortisti che sono molto presenti qua anche come Movimento per la Vita, come obiettori di coscienza, molto spesso riportano, non tengono conto di questi dati, né del giro di soldi, né del pericolo di vita delle donne. Molto spesso creano una grande confusione perché gli argomenti che mettono in campo sono sempre quelli contrari agli anticoncezionali moderni, perché diciamo, non sono astrali, insomma, questo tipo di perle di saggezza. E sull'educazione sessuale che dovrebbe essere secondo loro di un altro tipo, come se si potesse arrivare all'utopia di non avere nessun aborto, quando non è proprio questo il punto, cioè il punto è che ciascuna donna deve essere libera poi di decidere sul proprio corpo e di operare l'introduzione involontaria di gravidanza in qualsiasi momento voglia, poi in qualsiasi momento sia permesso appunto dai tempi biologici. Assolutamente. Ti quindi, devo scusare. Ti devo chiedere scusa. Sì. Il microfono ci tradisce. Sì, perché purtroppo tu sai che siamo all'interno di uno spazio che avrà moltissimi altri collegamenti internazionali, quindi ascoltando anche le voci di altre donne, e quindi io spero veramente di poter sentirti anche un'altra volta, visto approfittando della tua presenza in Argentina per parlare in maniera ancora più approfondita di questi temi. E, però chiuderei facendomi invece raccontare, come mi anticipavi tu, le ulteriori. Non ci si ferma all'8 di marzo, so che c'è un appuntamento anche per domani. Certo, domani c'è invece l'appuntamento di una mobilitazione convocata dal gruppo femminista lesbico La Fulana, che è la seconda giornata di resistenza lesbica intitolata a Natalia Gaitán. Natalia Gaitán era una ragazza lesbica che è stata fucilata dal padrino della propria compagna il 6 maggio del 2010. Appunto questa mobilitazione durerà e sarà ancora qui in Plaza Congresso e prevede delle attività che si faranno proprio qua in piazza da mezzogiorno fino a mezzanotte, quindi tutta una giornata proprio per tornare a riempire le strade, per farci sentire in maniera rumorosa e determinata. Sono varie le attività che si porteranno in piazza, molti interventi di varie realtà, molti interventi di radio, si parlerà di visibilità lesbica, ci saranno interventi di vari gruppi LGBTQ, ci sarà un'intervista con un attivista che parlerà di mascolinità trans e poi ancora di bullismo all'interno delle scuole, di bullismo omofobo all'interno delle scuole e di nuovo si parlerà della tematica della campagna per l'aborto libero, legale e gratuito e anche appunto, io stavo dando un po' un'occhiata al programma che ho qui sotto, e anche della violenza all'interno di coppie lesbiche, che appunto non è assolutamente una tematica nuova e che non deve sfuggirci anche quando parliamo di violenza maschilista in occasione di questa giornata, come in tutto il resto dell'anno. Del resto non dobbiamo dimenticarci che esiste anche questo tipo di violenza. Quindi ecco, io non voglio rubare altro tempo perché so che ci sono tantissimi collegamenti. Se tu non hai domande, io vi saluterei qua. Sì, ne avrei moltissime, quindi a questo punto sei incastrata per un prossimo collegamento. Volentierissimo, guarda, volentierissimo, io saluto tutte, un abbraccio e l'appello è a continuare la lotta sempre in qualsiasi parte del mondo ci troviamo. Assolutamente. Ciao, un abbraccio forte anche a tutte le compagne che sono lì con te. Ciao. Grazie, ciao. Ciao.